l'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Caparrucci. Buongiorno a tutti e benvenuti all'Eco del Silenzio. Io sono Lucia Caparrucci e siamo ovviamente su Radio Libriamoci Web. Il 29 febbraio è stata la giornata mondiale delle malattie rare. La data stessa è speciale in qualche modo, visto che appunto cade ogni 4 anni. Ma i rimanenti 3 anni ovviamente non è che non si festeggi, semplicemente si anticipa al 28 febbraio. La prima notizia quindi è legata a questo avvenimento. Dal blog Francamente, il blog senza barriere del mensile vita.it, malattie rare, mi sento in colpa, di Franco Bonprezzi, del 29 febbraio 2012. 8.000, fosse anche solo un malato per ogni malattia, potremmo contare in Italia 8.000 cittadini quasi sicuramente orfani di medicine e di cure. Il fatto è che ci sono forse più convegni, associazioni e coordinamenti di associazioni che malati. No, questo non è vero, mi contraddico. I malati sono sicuramente di più, ma non sappiamo esattamente quanti. Mi sento un po' in colpa su questo versante, già perché anche io, modestamente, faccio parte della categoria. Sono arrivato a quasi 60 anni, nonostante gli esiti dell'osteogenesi imperfetta. Una, appunto, di queste 8.000 patologie, frutto dell'impazzimento del DNA. Non siamo tantissimi e ognuno di noi è diverso dall'altro. Più o meno piccoli, più o meno storti. Uomini e donne con le ossa fragili, ma non fragili allo stesso modo, ci mancherebbe. Quindi dovrei occuparmene di più. E invece da troppi anni mi sono tirato indietro. I primi tempi, quando nacquero i coordinamenti, i tentativi di fare rete, mi ero dato da fare con entusiasmo. Poi mi sono fermato. Perché? Beh, se devo dire la verità, e gli amici di vita non possono fare a meno di dirla, mi ero trovato in una compagnia molto eterogenea. Tante brave persone, ci mancherebbe altro, ma spesso animate da un ego smisurato. Un narcisismo, inversamente proporzionale talvolta, al numero delle persone o delle famiglie rappresentate. Ho visto molto presto la competizione per emergere, per dirigere, per presiedere, per coordinare. Che cosa? Il nulla o quasi. Ma con l'idea balzana di poter contare molto nei tavoli che contano, nei ministeri ad esempio, o laddove si decidevano gli stanziamenti per i laboratori di ricerca o per i centri clinici. E poi scoprivo questa strana e per me non molto limpida cogestione di molte associazioni fra i genitori di pazienti e medici e ricercatori. Capisco che il nostro è il paese nel quale il concetto di conflitto di interesse non viene insegnato, forse neppure nelle aule di diritto all'università. Però a me pare singolare che in un terreno così minato come quello della ricerca farmacologica e clinica non si operi, sin dall'inizio, separando nettamente competenze e incarichi. Mica peraltro, ma perché non si sa mai. Gli anni sono passati e non mi risulta che molto sia cambiato, anche se si sono moltiplicati i portali internet e i coordinamenti associativi, sempre più costruiti da brave persone che si danno un gran da fare per farsi sentire a livello di governo, in Italia, ma anche in Europa. Viaggi, convegni, seminari, gruppi di studio, documenti. Difficile seguire il fiume di carta e decodificarlo in termini di comunicazione normale. D'altra parte, è vero, stiamo parlando di malattie non solo rare, ma addirittura impronunciabili. E le sigle delle associazioni sono spesso ancora più impronunciabili delle malattie, anche se addolcite da loghi dolci, simbolici e accattivanti, che ci fanno sperare in un mondo migliore. Il punto di fondo, mi pare, sia rimasto sempre lo stesso. Le malattie sono talmente rare che non c'è un interesse reale delle case farmaceutiche a sviluppare ricerca, perché tanto la diffusione e la vendita dei farmaci non sarebbe affatto redditizia. E poi, le situazioni sono talmente diverse che ogni malattia meriterebbe un centro di ricerca, e la rete è una bella cosa, ma poi di fatto è difficile farla funzionare. A livello centrale e governativo si potrebbero fare tante cose, ma la volontà politica si scontra con la caducità dei governi e dei parlamenti. Il tempo passa. Fino ad oggi, 29 febbraio, giornata delle malattie rare. Lo so, sembra uno scherzo. Anno bisestile, se ne parla fra 4 anni, se vogliamo trovare un altro 29 febbraio. No, non è così. La giornata c'è, tutti gli anni, e questa volta si è riempita magicamente di tante iniziative in giro per l'Italia, compresa una marcia pacifica per le vie del centro di Milano. Mi pare che si cominci a delineare una speranza, un mondo diverso di porre la questione, ovvero, dietro le malattie ci sono le persone. I bambini, nella metà dei casi, che hanno un nome, una dignità, dei diritti, come tutti gli altri. Io parlerei più volentieri di destini rari più che di malattie. Forse è proprio il termine malattia che mi ha allontanato da questo mondo. E mi scuso della mia latitanza, davvero, ma ormai da tempo sono abituato a ragionare di persone con disabilità e di diritti. La malattia è la premessa della disabilità, non la sostanza. Ma mi rendo conto che a volte non c'è neppure il tempo per sorridere o per piangere. La vita si prende tutto, prima ancora che sia possibile sperare in una cura. Ecco perché vorrei meno convegni, meno premiazioni, meno bandiere e forse un po' più di lotta assieme agli altri, a quelli che sembrano più forti e grossi, ma che semplicemente, da tempo, hanno capito che in questi tempi così difficili, solo un'unione più larga, basata sui diritti di cittadinanza, può salvarci dal peggio. Sperando di farmi perdonare, auguro buona fortuna e lunga vita a tutte le persone che convivono con le malattie rare, ai loro familiari, ai loro amici, ai medici, ai volontari, a questo mondo straordinario e composito che meriterebbe più ascolto competente e meno solidarietà sentimentale. L'eco del silenzio. Silenzio. Se di TAV e movimento no TAV si parla poco, quantomeno molto male, sicuramente non si parla dei costi della suddetta. Da www.eilmensile.it, se 4 cm di TAV costano come un anno di pensione, di Mario Di Vito, del 2 marzo 2012, 5.000 euro a centimetro. Ecco il costo per i chilometri di TAV che l'Italia dovrà costruire, un'opera imponente di cui si discute da 20 anni e che, periodicamente, torna di moda su giornali e TV per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in Val di Susa, senza mai, o quasi, che qualcuno si interroghi sulle spese e sull'effettiva necessità di una cosa del genere. Il costo complessivo dell'impresa, stimato sulla base di quanto abbiamo speso per le altre linee ad alta velocità realizzate nel bel paese, dovrebbe aggirarsi sui 40 miliardi di euro. Ed è comunque una stima al ribasso. In un dossier preparato dall'Unione Europea nel 2006, il preventivo era di 17 miliardi. Soltanto 4 anni dopo, un altro dossier raddoppiava le cifre, 35 miliardi. Per fare qualche esempio, 4 cm di TAV sono un anno di pensione. 3 metri equivalgono a una scuola materna con 4 sezioni, 500 metri a un ospedale da 1200 posti, 226 ambulatori e 36 sale operatorie. Tanto per dire, poi, in Francia, per 140 km di TAV, dei quali 33 a cielo aperto e 45 di tunnel, spendono 6,2 miliardi di euro. Tra l'altro, non sono pochi quelli che dubitano nel fatto che l'Italia abbia tutti questi soldi da investire e che quindi si renderà necessario chiedere soldi in prestito dalle banche, con conseguenze inimmaginabili in termini di interessi e debito pubblico, come se già non avessimo problemi del genere. Nel complesso, la nuova tratta dovrebbe occupare una lunghezza compresa tra i 254 e i 265 chilometri, poco meno della linea attuale, che di chilometri ne percorre 287, sfruttata al minimo e con un traffico di merci che anno dopo anno va scendendo. Questi numeri sono soltanto il risultato di un processo tragicamente noto a tutti, quello degli appalti, spesso distribuiti in modo poco trasparenti e su quali anche l'antimafia ha espresso diversi dubbi. È una storia vecchia ormai, le opere pubbliche in Italia arrivano a costare decisamente più che nel resto d'Europa e senza che, comunque, la loro qualità raggiunga livelli appena accettabili. Oltre ai motivi ambientali, all'esproprio dei terreni e alla dubbia utilità economica della TAV, cioè, che senso ha percorrere Lione-Torino in un'ora e mezzo, quando poi per arrivare in Calabria ci vuole, se va bene, tutto un giorno intero di viaggio? Bisogna anche considerare lo spreco di denaro pubblico che quest'opera porta con sé. L'Unione Europea ancora non ha deciso se e in che misura finanziare l'opera e anche dall'altra parte delle Alpi le cose vanno avanti con estrema calma. Il 30 gennaio scorso a Roma è stato siglato un ennesimo accordo tra Italia e Francia per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, un accordo che molti hanno definito farsesco, inutile addirittura, dannoso per gli stessi ipotetici investitori che starebbero guardando con interesse alla TAV e che attraverserà la Val di Susa. Il governo Monti, scrivono i notav sul loro blog, dimostra anche in questa vicenda un'assoluta continuità con i governi Berlusconi e Prodi che lo hanno preceduto. Anni in cui i governi hanno venduto su quest'opera solo false notizie e fuma, ingannando un'opinione pubblica addomesticata, che ora però è divenuta cittadinanza attiva. Se da un lato il movimento notav in Val di Susa è cresciuto oltre che in partecipazione anche in determinazione e lotta, dall'altro, a livello italiano, ha saputo informare e aggregare, diffondendo verità e consapevolezza. Alla base dei dubbi c'è proprio il primo articolo dell'accordo, nel quale si legge che non ha per oggetto l'avvio dei lavori definitivi nella parte comune italo-francese, che richiederà l'approvazione di un protocollo addizionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione Europea al progetto. In sostanza, il progetto per la Torino-Lione c'è, ma mancano ancora i presupposti per farlo partire, con l'Unione Europea che ancora non ha deciso se prendere parte all'impresa o meno. Dunque, da dove arriva tutta questa fretta di aprire cantieri? L'eco del silenzio. Ed ora concludiamo con due note positive. Da www.repubblica.it. Guatemala. Le foreste tornano a vivere, migliaia di alberi piantati dai bambini. Del 28 febbraio 2012. Il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, CSP, ha consegnato 11.850 alberi ai ragazzini e ai maestri di 8 scuole, che saranno impiantati nelle loro rispettive località, un'iniziativa con lo scopo di compensare le emissioni di gas serra. Il Guatemala è il paese vincitore del premio UNEP, Foreste per le persone, foreste per la crescita verde. Ora, il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, CSP, ha consegnato 11.850 alberi ai bambini e ai maestri di 8 scuole, che insieme li pianteranno nelle loro località. Un'iniziativa che ha lo scopo di compensare le emissioni di gas serra prodotte dalla conferenza annuale del 2010, tenutasi proprio nel paese mesoamericano. Compensare le emissioni di gas serra. In coincidenza con l'arrivo della stagione piovosa in Guatemala, che quest'anno è stata ritardata nelle ripercussioni del cambiamento climatico, il 6 giugno scorso il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, ha consegnato 11.850 giovani alberi al municipio di San José Apuaquil, nel dipartimento di Maltenango, altipiano centrale del Guatemala. Il progetto è stato portato avanti per compensare l'emissione di gas serra e l'impronta ambientale lasciata nel 2010 dalla conferenza annuale dell'Organizzazione Internazionale che si era tenuta proprio nel paese del Centro America. Il programma di educazione ambientale. Gli alberi che saranno piantati da bambini e da maestri di 8 scuole rurali con l'appoggio del municipio ripopoleranno una superficie vasta di 11 ettari. Nel quadro della raccolta della spazzatura, l'iniziativa è stata sostenuta anche dal Ministero dell'Educazione guatemalteco ed è coincisa con le iniziative locali pianificate per la celebrazione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. L'occasione è servita anche per sensibilizzare gli amministratori locali e la comunità ad un maggiore rispetto per l'ambiente e alla necessità che si sviluppino con sempre maggiore costanza azioni dal basso che favoriscano la mitigazione del cambiamento climatico. Un paese virtuoso. Quella del CSP è un'azione importante mossa dal senso di responsabilità, che fa ben sperare anche se resta una piccola goccia nel mare gigantesco della deforestazione. Per la verità, il Guatemala quest'anno, secondo i parametri del Programma Ambientale delle Nazioni Unite, pare essersi distinto tra i paesi virtuosi, che si interessano a questo particolare aspetto ambientale. Assieme al Nepal, infatti, ha vinto il premio dell'UNEP sul tema Foreste per le persone, foreste per la crescita verde, per aver saputo implementare una gestione attiva del proprio patrimonio naturale, proteggendolo e allo stesso tempo utilizzandolo per migliorare la vita delle comunità locali. Un riconoscimento significativo, almeno dal punto di vista simbolico, se si guardano i numeri dell'impoverimento forestale guatemalteco. Dal 1999 al 2000, il Guatemala aveva perso circa 54.000 ettari di foreste all'anno. Tra il 2000 e il 2005 la percentuale del cambiamento forestale è cresciuta dall'1,14% all'1,28% per anno. In totale, tra il 1990 e il 2005, il Guatemala perse il 17,1% delle proprie foreste, qualcosa come 810.000 ettari. Nel 2010, gli ettari disboscati ammontavano a 1.091.000. E per finire, l'ultima notizia di questa settimana. Da www.elmensile.it, Spagna, impresa Eternit condannata a risarcire 23 operai, del 2 marzo 2012. La lotta delle vittime dell'amianto in Spagna è stata per lunghi anni solitaria e isolata. Oggi però è sempre più frequente la formazione di gruppi di pazienti che si uniscono per rivendicare i loro diritti contro le imprese che li hanno obbligati a respirare fibre tossiche. L'ultimo successo di questa battaglia è stata la sentenza di ieri contro l'impresa spagnola Uralita, che dovrà risarcire 23 operai per un totale di 1,7 miliardi di euro. L'impresa è stata sanzionata per non aver adottato le misure di protezione necessarie a tutelare la salute dei suoi lavoratori. Lo scorso 13 febbraio in Italia, il Tribunale di Torino ha condannato due ex dirigenti della Eternit a 16 anni di reclusione per aver causato la morte di 2.300 persone e averne fatte ammalare 665. Anche per questa settimana è tutto, da Lucia Capparucci un saluto e l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparucci.